Ci cacciammo un'altra volta tra la ressa e arrivammo al davanzale. Susanna riempì in fretta un foglio. Nome? Cittadine Susanne Bernardine Eugenia Desirée Clary. Scopo della visita? Ci guardammo in faccia smarrite. Scrivi la verità, dissi io. Così non ci riceverà, mormorò Susanna. Prima di riceverci si informerà ugualmente sul nostro conto, dissi. Certo, le cose qui non sembrano tanto semplici. No. Certo, gemette Susanna e scrisse: Scopo della visita, arresto del cittadino Stefano Clary. Un'altra volta ci aprimo la strada fino al nostro arcangelo Giacobino. Egli gettò una rapida occhiata al foglio, grugnì: Aspettate! E scomparve dietro la porta. Poi tornò e disse: Potete attendere, il cittadino rappresentante del popolo vi riceverà, sarete chiamate. Poco dopo la porticina si aprì. Qualcuno disse qualche cosa all'arcangelo. Questi ruggì verso la gente. Cittadino Giuseppe Petit. E io vidi un vecchio con una ragazzina levarsi dalla panca di legno lungo la parete. In fretta spinsi Susanna verso i due posti liberi. Sediamoci. Dovranno passare ancora delle ore prima che venga il nostro turno. La nostra condizione era straordinariamente migliorata. Appoggiammo la schiena alla parete, chiudemmo gli occhi e muovemmo le dita dei piedi dentro le scarpe. Poi incominciai a guardarmi intorno e riconobbi il nostro calzolaio, il vecchio Simon. E vedendolo mi tornò in mente suo figlio, il giovane Simon, dalle gambe storte, come hanno marciato eroicamente quelle gambe storte allora, un anno e mezzo fa. Allora, un anno e mezzo fa, io ho visto un corteo che non dimenticherò più fino al termine della mia vita. Il nostro paese era premuto da tutte le parti, da eserciti nemici. Gli stranieri non erano disposti a tollerare che noi avessimo proclamato la Repubblica. Sembrava che il nostro esercito non potesse più reggere a lungo queste forze preponderanti. Una mattina mi destai perché sotto le nostre finestre cantavano. Saltai giù dal letto ed ecco che sfilavano. Essi, i volontari di Marsiglia, portavano con loro tre cannoni della fortezza. Non volevano arrivare a mani vuote a Parigi dal ministro della guerra e tutti cantavano Allons enfants de la patrie, la nuova canzone che da un giorno all'altro è diventata famosa. E io cantavo con loro. A un tratto comparve Giulia accanto a me e allora strappammo le rose rampicanti che si avviticchiano al nostro balcone e le gettammo giù in strada. Le jour de gloire est arrivé. L'onda del canto saliva a noi e le lacrime ci scorrevano giù per le guance, e di sotto il sarto Franchon acchiappò due rose e rise guardandoci. Giulia gli rispose agitando tutte e due le mani e singhiozzando: Aux armes, citoyens, aux armes! Erano ancora tutti vestiti da borghesi, con le loro giubbe scure o con i loro camiciotti di tela azzurra, con le scarpe di vernice o con gli zoccoli di legno. A Parigi una parte di loro ebbe delle uniformi, non tutti, non ce n'erano abbastanza, ma con le uniformi o senza ricacciarono il nemico e vinsero le battaglie di Valmy e di Vatigny. La canzone con cui essi partirono per Parigi adesso si suona e si canta in tutta la Francia e si chiama la Marsigliese perché è stata portata attraverso il paese dai cittadini della nostra città. Intanto il vecchio calzolaio si era fatto strada fino a noi. Ci strinse la mano, un po' impacciato, ma calorosamente, come se volesse condolersi. Poi parlò in fretta delle suole di cuoio che adesso si possono trovare soltanto al mercato nero, della riduzione delle imposte che sperava di ottenere dal Bit, e del suo figliuolo dalle gambe storte, del quale non aveva più nessuna notizia. Poi venne chiamato e si congedò da noi. Aspettammo parecchie ore. I minuti di quelle ore passavano lenti. Ogni tanto io chiudevo gli occhi e mi appoggiavo a Susanna. Quando riaprivo gli occhi, i raggi del sole piovevano ogni volta un po' più obliqui e un po' più rossi attraverso la finestra. Ormai non c'era più molta gente nella stanza. A quanto sembrava, Albita abbreviava le udienze perché l'arcangelo adesso chiamava i nomi rapidamente l'uno dopo l'altro. Ma c'erano sempre parecchie persone che erano venute prima di noi. Vorrei trovare un marito per Giulia, dissi. Nei romanzi che lei legge, le eroine si innamorano a 18 anni al massimo. Come hai fatto a conoscere Stefano, tu, Susanna? Oh, lasciami in pace adesso, disse Susanna. Voglio concentrare i miei pensieri su quello che dovrò dire là dentro. E gettò uno sguardo alla porta. Beh, se io dovessi ricevere della gente non la farei aspettare. Darei loro appuntamento a un'ora fissa, l'uno dopo l'altro, e li farei entrare subito da me. Aspettare spossa, al punto che non ci si regge più in piedi. Che sciocchezze stai dicendo, Eugenia? Come se mai nella tua vita avessi da ricevere, come dici tu, della gente. Io tacqui e mi venne ancora più sonno. Il vino di Porto rende prima allegri, poi tristi e da ultimo stanchi, pensavo. Ma in nessun caso da forza. Oh, smettila di sbadigliare, non sta bene, disse Susanna. Oh, viviamo in una libera repubblica, mormorai io insonnolita. Ma subito sussultai perché stavano chiamando un altro nome. Susanna posò la sua mano sulla mia. Non è ancora il nostro turno. La sua mano era sempre gelida. Alla fine mi addormentai davvero e così sodo che credevo di essere a casa nel mio letto. A un tratto fui disturbata dalla luce di una lanterna, ma non apersi gli occhi, pensai soltanto: Giulia, lasciami dormire ancora, sono ancora stanca. Ma una voce disse: Svegliatevi, cittadina. Io però non me ne curavo. Allora qualcuno mi scosse per le spalle: Svegliatevi, cittadina, qui non potete continuare a dormire. Oh, lasciami stare, brontolai io a tutta prima. Ma di colpo mi destai, veramente. Respinsi la mano estranea dalla mia spalla e balzai in piedi. Non avevo la più lontana idea del luogo dove mi trovavo. Ero in una stanza buia dove un uomo con una lanterna in mano si chinava su di me. Per l'amor del cielo, dov'ero mai? Non dovete avere paura così, cittadina, diceva ora lo sconosciuto. La sua voce era sommessa e gradevole, ma la sua pronuncia aveva qualcosa di forestiero e anche ciò contribuiva a farmi apparire tutta la scena come un brutto sogno. Dissi, tuttavia, non ho affatto paura, e aggiunsi, ma non so dove mi trovo e chi siete voi. Lo sconosciuto cessò di gettarmi la luce negli occhi e poiché adesso teneva la lanterna più vicina a sé, potei distinguere i tratti del suo volto. Era un giovanotto veramente bello, con degli occhi scuri, ridenti, un viso molto liscio e un graziosissimo sorriso. Portava un abito scuro e un mantello sulle spalle. Mi dispiace di dovervi disturbare, disse il giovane con cortesia, ma ora devo andare a casa e sto per chiudere l'ufficio del rappresentante del popolo al BIT. L'ufficio? Oh, come mai ero capitata in un ufficio? Il capo mi doleva e le membra mi pesavano come se fossero di piombo. Che ufficio? E voi, per favore, chi siete? Balbettai. È l'ufficio del rappresentante del popolo al BIT. E io mi chiamo, visto che ciò sembra interessare la cittadina, Buonaparte. Sono il cittadino Giuseppe Buonaparte, applicato al Comitato di Salute Pubblica di Parigi in missione di segretario del rappresentante del popolo al BIT nel suo viaggio a Marsiglia. E le ore d'ufficio sono terminate da un pezzo. Io devo chiudere, ed è contro i regolamenti che qualcuno pernotti in una stanza d'attesa della Maison Commune. Perciò devo pregare vivamente la cittadina di svegliarsi e di uscire dalla Maison Commune. Maison Commune. Al BIT. Ora sapevo dove mi trovavo e perché ero là. Ma dov'era Susanna? E dov'è Susanna? Domandai disperata al cortese giovane. Il suo sorriso intanto si era mutato in un'aperta risata. Non ho l'onore di conoscere Susanna, disse. Vi posso dire soltanto che le ultime persone che sono state ricevute dal cittadino Albit sono uscite dal suo ufficio 2 ore fa. All'infuori di me qui non c'è nessuno. E io ora me ne vado a casa. Ma io devo aspettare Susanna, insistetti. Voi dovete perdonarmi. Boh, ma Buonaparte, mi venne in soccorso il giovane gentilmente. Sì, cittadino Bonaparte, voi dovete scusare, ma io sono qui e resto qui finché non torni Susanna. Altrimenti mi farebbero una tremenda scenata se dovessi tornare sola a casa e confessare che l'ho smarrita alla Maison Commune. Voi mi potete capire, non è vero? Egli sospirò. Oh, siete terribilmente ostinata, disse. Poi depose la lanterna sul pavimento e si sedette accanto a me sulla panca di legno. Come si chiama veramente questa Susanna? Chi è e che cosa voleva dal BIT? Susanna? Si chiama Susanna Clary ed è la moglie di mio fratello Stefano, dissi. Stefano è stato arrestato e Susanna ed io volevamo chiedere la sua liberazione. Un momento. Si levò, prese prese la lanterna e scomparve dietro la porta, davanti a cui prima aveva montato la guardia l'arcangelo. Io lo seguii. Egli si era curvato su di un grande scrittoio e scartabellava un fascio di documenti. Se Albita ha ricevuto vostra cognata, la pratica deve trovarsi qui. Il rappresentante del popolo si fa sempre portare le pratiche per ogni caso prima di conferire con i parenti dei detenuti, mi spiegò. Poiché non sapevo che cosa dire, mormorai: è un uomo molto giusto e compiacente, questo rappresentante del popolo. Egli levò gli occhi e mi gettò un'occhiata ironica. Oh, soprattutto benigno, cittadina, forse anche troppo. Per questo il cittadino Robespierre del Comitato di Salute Pubblica mi ha incaricato di aiutarlo. Oh, voi conoscete Robespierre? Mi scappò detto. Dio mio, siete uno che conosce personalmente il rappresentante del popolo, Robespierre, quello che fa arrestare i suoi migliori amici per servire la Repubblica. Ah, ecco qui la pratica, Stefano Clary, esclamò in quel momento il giovane tutto contento. Stefano Clary, negoziante di setterie di Marsiglia, è così? Annuì, sollecitata. Poi aggiunsi in fretta, ma in ogni caso è stato un equivoco. Il cittadino Bonaparte si voltò verso di me. Che cosa è stato un equivoco? La causa del suo arresto, dissi. Il giovane fece la faccia seria. Davvero? E perché poi è stato arrestato? Questo, ecco, non lo sappiamo, confessai. In ogni caso, ve lo posso assicurare, è stato un malinteso. Mi venne un'idea. Sentite, dissi, sollecita, voi avete detto dianzi che conoscete il cittadino commissario della salute pubblica Robespierre. Forse potrete dirgli che nel caso di Stefano si tratta di un errore e che... Mi si fermò il cuore. Il giovane scuoteva il capo lentamente e con aria molto seria. In questa faccenda non ci posso e non ci voglio far nulla, e del resto non c'è più niente da fare. Ecco, e sollevò il documento con un gesto solenne. Qui sta scritto... Il rappresentante del popolo Albit lo ha annotato di suo pugno. Mi porse il foglio. Leggete voi stessa. Io mi chinai sul documento. Ma sebbene egli mi reggesse la lanterna molto vicina, le lettere mi si confondevano davanti agli occhi. Vidi alcune parole vergate da una mano rapida, ma le parole ballavano. «Sono tanto agitata. Leggete voi, per favore», dissi, e mi sentivo spuntare negli occhi le lacrime. Dopo il pieno chiarimento del caso, rimesso in libertà. Oh, vuol dire dunque... Tremavo in tutta la persona. Vuol dire dunque che Stefano... Certo, vostro fratello è libero. Vostro fratello probabilmente si trova adesso con codesta Susanna e col resto della famiglia in casa sua e fa onore alla cena e tutta la famiglia lo festeggia e si è completamente scordata di voi. Ma che cos'è questo, cittadina? Avevo incominciato a piangere dirottamente. Non riuscivo a consolarmi. Le lacrime mi scorrevano giù per le guance. Dovevo piangere e piangere ed era una cosa assolutamente incomprensibile perché non ero affatto triste. Ero invece straordinariamente felice e non ho mai saputo che si può piangere anche di gioia. Oh, sono tanto contenta, singhiozzavo. Monsieur, sono tanto, tanto contenta. Questa scena riusciva evidentemente penosa a quel giovane. Egli aveva riposto la pratica e si dava da fare allo scrittoio. Io intanto frugavo sotto il mio guardinfante cercando il fazzoletto, ma mi accorsi che alla mattina avevo dimenticato di prenderlo. Mi ricordai allora dei miei fazzoletti che portavo sul petto e mi cacciai una mano nella scollatura. Proprio in quel momento il giovane tornò a voltarsi verso di me e quasi non credette ai suoi occhi. Fuori dalla mia scollatura stavano uscendo 2, 3, 4 pannolini, l'uno dopo l'altro. Faceva l'effetto di un gioco di prestigio. Mi sono messa dei fazzoletti nella scollatura perché si veda che sono una ragazza già grande, mormorai perché sentivo di dovergli una spiegazione. Mi vergognavo orribilmente. A casa mia mi trattano sempre come una bambina. Voi non siete più una bambina, siete una signorina, mi rassicurò subito il cittadino Bonaparte. E ora vi accompagnerò a casa, perché di questi tempi non è una cosa molto piacevole per una signorina giovane andarsene da sola attraverso la città. Oh, troppo gentile da parte vostra, signore, ma io non posso accettare, balbettai confusa. Voi stesso avete detto che volete andarvene a casa. Egli rise. Non si contraddice un amico di Robespierre. Adesso ci mangiamo un dolce per ciascuno e poi ce ne andiamo. aprì un cassetto dello scrittoio e mi porse un cartoccio. Ciliegie candite alla cioccolata. Albit ha sempre dei dolci nel suo scrittoio, mi spiegò. Prendete pure un'altra ciliegia al cioccolato, sono buone, non è vero? Queste cose oggidì se le possono permettere soltanto i deputati. L'ultima frase fu detta in tono un po' amaro. Ma io abito dall'altra parte della città e voi allungherete troppo la vostra strada, dissi con un senso di rimorso quando fummo usciti dalla Maison Commune. Ma non me la sentivo di rifiutare la sua compagnia perché veramente a Marsiglia una donna giovane non può andarsene da sola per le vie di sera senza essere molestata e per di più lui proprio mi piaceva. Mi vergogno tanto d'aver pianto a quel modo prima, dissi dopo un poco. Egli mi strinse lievemente il braccio e mi rassicurò. Capisco tutto, benissimo. Anch'io ho dei fratelli ai quali sono molto affezionato e ho anche delle sorelle che avranno pressappoco la vostra età. Ormai non mi sentivo proprio più a disagio davanti a lui. Ma voi non state mica qui di casa? Domandai. Sì, tutta la mia famiglia, eccetto un fratello, abita ora a Marsiglia. Ecco, io credevo diversamente perché voi avete una pronuncia diversa dalla nostra. Io sono corso, disse lui, profugo corso. Da più di un anno sono venuto in Francia con mia madre e i miei fratelli. Abbiamo dovuto lasciare in Corsica ciò che avevamo pur di salvare la vita. La storia aveva un acuto sapore romantico. Come mai? Domandai trattenendo il fiato per il grande interesse che provavo. Perché siamo patrioti, rispose. Ma la Corsica non appartiene all'Italia? Chiesi io, perché la mia ignoranza purtroppo non ha limiti. Ma che dite? Rispose sdegnato. La Corsica è da 25 anni sotto la sovranità della Francia e noi siamo stati educati come cittadini francesi, perciò non potevamo intenderci col partito che vorrebbe consegnare l'isola agli inglesi. Lo scorso anno sono improvvisamente comparse delle navi da guerra inglesi davanti alla Corsica. Avrete certamente sentito parlare di questo. Io feci cenno di sì, probabilmente ne avevo anche sentito parlare, ma in ogni caso me ne ero scordata da un pezzo. E così abbiamo dovuto fuggire, la mamma con i miei fratelli e le mie sorelle. La sua voce suonava cupa. Era un vero eroe da romanzo, perseguitato, scacciato dalla patria, profugo. E avete degli amici qui a Marsiglia? Mio fratello ci aiuta. È riuscito a far dare alla mamma una piccola pensione di Stato, appunto perché ella è dovuta fuggire davanti agli inglesi. Mio fratello è stato educato in Francia, alla scuola militare di Brienne, adesso è generale. Oh! Dissi io ammirata, perché si deve pur dire qualche cosa quando qualcuno ci racconta di punto in bianco che ha un fratello generale. E poiché io non seppi dire niente di più, egli incominciò a mutare il tema della conversazione. Voi siete una figlia del defunto negoziante di seterie Clarino, non è vero? Io ero stupita. Come fate a saperlo? Egli rise. Oh, non dovete meravigliarvi così. Adesso potrei anche dirvi che l'occhio della legge vede tutto e che io, come funzionario della Repubblica, sono uno di questi innumerevoli occhi. Ma voglio essere assolutamente leale, mademoiselle, e vi dirò che voi stessa mi avete dichiarato di essere la sorella di Stefano Clary e che Stefano Clary sia il figlio del defunto negoziante di sete Francesco Clary, e risulta dal documento che ho orora esaminato. Parlava molto rapidamente e quando non si sorvegliava strascicava la R proprio come uno straniero, ma in fin dei conti era un corso. Del resto avevate ragione, signorina. L'arresto di vostro fratello era dovuto davvero a un equivoco. Nella pratica di vostro fratello tutto è spiegato esattamente. Recentemente sono stati riesaminati parecchi documenti del tempo precedente la rivoluzione e tra questi si è trovata una domanda del negoziante di sete Francesco Clary che voleva ottenere un brevetto di nobiltà. Io fui molto stupita. Davvero? Noi non ne sapevamo proprio nulla. Non riesco neppure a spiegarmelo. Papà non aveva affatto simpatia per la nobiltà. E perché avrebbe dovuto? Scossi il capo. Per ragioni di commercio, spiegò il cittadino Bonaparte. Nient'altro che per ragioni di commercio. Probabilmente voleva diventare fornitore di corte, non è vero? Oh, sì, una volta mandò anche del velluto di seta azzurro alla regina. Voglio dire, alla vedova Capeto a Versailles. Dissi con orgoglio. Le stoffe di papà erano famose per la loro buona qualità. Quella domanda fu giudicata un segno, ecco, di un atteggiamento assolutamente contrario allo spirito dei tempi. Per questo fu spiccato un mandato d'arresto. Quelli che vennero da voi trovarono soltanto il negoziante di seta, Stefano Clary, e arrestarono lui. Ma Stefano non sapeva nulla di quella domanda, certamente, affermai io. E suppongo che vostra cognata Susanna sia riuscita a convincere di questo il rappresentante del popolo Elbit, perciò vostro fratello è stato rilasciato e vostra cognata naturalmente è corsa subito al carcere a prenderlo. Ma tutte queste sono ormai cose del passato. Quello che ora mi interessa, e la sua voce si raddolcì e divenne quasi affettuosa, non mi interessa tanto la vostra famiglia quanto voi, mia piccola cittadina. Qual è il vostro nome, mademoiselle? Mi chiamo Bernardine Eugenia Desiré. In casa purtroppo mi chiamano Eugenia, ma mi piacerebbe molto più di più essere chiamata Desiré. Non avete che dei nomi belli. E come vi devo chiamare io, Mademoiselle Bernardina Eugenia Desiré? Mi accorsi che arrossivo, ma per fortuna era buio e lui non mi poteva vedere. Ebbi l'impressione che il discorso stesse prendendo una piega di cui mamma non sarebbe stata molto entusiasta. Beh, chiamatemi Eugenia come tutti gli altri, ma dovete venirci a far visita e allora io, in presenza di mamma, vi proporrò di chiamarmi col nome di battesimo, così non mi faranno delle scenate, perché credo che se mamma sapesse. Mi interruppi smarrita. Non vi è dunque mai permesso di fare una passeggiatina con qualche giovanotto? Vuole sapere lui. Non lo so. Finora veramente non ho ancora conosciuto dei giovanotti, mi sfuggì detto. Egli strinse di nuovo il mio braccio e rise. Ma adesso ne conoscete uno, Eugenia. Quando verrete a farci visita? Dovrò venire presto? Disse lui scherzando. Ma io non risposi subito. Un'idea che mi era venuta già da un poco non mi usciva più di mente. Giulia, ecco, Giulia che legge così volentieri dei romanzi, sarà entusiasta di questo giovane dalla pronuncia straniera. Ebbene, voi mi dovete una risposta, signorina Eugenia. Venite domani, dissi io, domani, dopo la chiusura dell'ufficio. Se farà abbastanza caldo, potremo starcene a sedere in giardino. Abbiamo un piccolo padiglione in giardino, è il posto favorito di Giulia. Mi parve di essere stata straordinariamente diplomatica. Giulia? Finora ero soltanto informato di Susanna e di Stefano, ma non ancora di Giulia. Chi è Giulia? Dovevo sbrigarmi, eravamo già arrivati alla nostra casa. Giulia è mia sorella. Maggiore o minore? Dal tono la domanda sembrava molto interessata. Maggiore ha 18 anni. E bella? Disse e strizzò l'occhio. Molto bella, dichiarai io risolutamente. Intanto pensavo se Giulia potesse dirsi proprio bella. È così difficile giudicare la propria sorella. Potete mettere la mano sul cuore? Oh, ha dei meravigliosi occhi castani, confermai. E questo è anche vero. Siete anche certa che io sarò gradito alla vostra signora madre? Questa domanda fu rivolta in tono esitante, sembrava che non ne fosse pienamente convinto e francamente neppure io lo ero. Oh, graditissimo, affermai, perché assolutamente non volevo lasciar sfuggire un'occasione per Giulia. Inoltre covavo un desiderio. Credete che vi sarà possibile condurre con voi anche vostro fratello, il generale? Qui Monsieur Bonaparte si infervorò. Oh, naturalmente, ne sarà molto lieto. Abbiamo così poche conoscenze a Marsiglia. Perché io non ho mai visto da vicino un vero generale, confessai. E allora domani potrete vederne uno. Per la verità, lui non ha momentaneamente un comando, ma sta lavorando a certi piani. Tuttavia, è sempre un vero generale. Cercavo senza riuscirci di farmi l'idea di un generale. Veramente non ne avevo mai visto uno, né da vicino né da lontano. E i ritratti dei generali del tempo del Re Sole mostravano soltanto dei vecchi signori con delle enormi parrucche. D'altra parte, dopo la rivoluzione, mamma ha mandato in soffitta quei ritratti che prima erano appesi nella nostra stanza di soggiorno. Deve esserci una considerevole differenza d'età tra voi e vostro fratello, osservai, perché Monsieur Bonaparte mi sembrava ancora molto giovane. No, non molta, pressappoco un anno. Come? Vostro fratello ha soltanto un anno di più di voi ed è già generale? Esclamai. Ha un anno di meno, rispose. Mio fratello ha 24 anni, ma è un giovanotto in gamba con delle idee straordinarie. In ogni modo, domani lo vedrete. Ormai eravamo in vista della nostra villa. Tutte le finestre del pian terreno erano illuminate, non c'era dubbio. Tutta la famiglia era a tavola da un pezzo. Io abito qui, in questa villa bianca. Il contegno di Monsieur Bonaparte mutò improvvisamente. Al cospetto della nostra villa bianca divenne di colpo incerto e si congedò in gran fretta. Non voglio trattenervi, Mademoiselle Eugenia. Certamente siete attesa con ansia. Oh, no, no, non c'è di che. È stato un grande piacere per me potervi accompagnare a casa. E se il vostro invito è stato fatto seriamente, mi permetterò davvero domani nel tardo pomeriggio. Voglio dire, se la vostra signora madre non ha proprio niente in contrario e se non disturberemo. In quel momento la porta di casa si aprì e si udì nel buio la voce di Giulia. Naturalmente è lei davanti al cancello del giardino. E poi con impazienza. Eugenia, sei tu, Eugenia? Vengo, vengo, Giulia, le gridai. Arrivederci, signorina, ripeté Monsieur Bonaparte. E subito corsi in casa. 5 minuti dopo mi dicevano che io sono la vergogna della famiglia. Mamma, Susanna e Stefano stavano seduti a tavola ed erano già al caffè quando Giulia mi condusse trionfalmente nella stanza. Eccola! Sia lodato il cielo! Esclamò mamma. Dove sei stata, bambina? Io lanciai a Susanna un'occhiata piena di rimprovero. Susanna si è completamente scordata di me, dichiarai. Mi sono addormentata e... Susanna teneva la tazzina del caffè nella destra e con la sinistra stringeva la mano di Stefano. Subito depose stizzita la tazzina. No! Non è così. Prima lei si addormenta alla Maison Commune e così profondamente che non riesco a svegliarla e devo andare sola dal Bit. Certo, non potevo far aspettare finché Mademoiselle Eugenia si fosse degnata di svegliarsi. E poi viene qui e... Dal Bit, tu probabilmente sei corsa subito al carcere e mi hai completamente dimenticata, dissi io. Ma io non me ne ho per male, proprio no. Ma dove sei stata finora? Volle sapere la mamma inquieta. Abbiamo già mandato Maria alla Maison Commune, ma era chiusa e il portiere le disse che all'infuori del segretario di Albitte non c'era più nessuno. Maria è tornata mezz'ora fa senza averti trovata. Dio mio, Eugenia! E adesso tu sei andata in giro per la città sola? A quest'ora? Se penso a quel che avrebbe potuto succederti. Mamma afferrò la campanella d'argento che a tavola sta sempre accanto al suo piatto e cominciò a suonare a distesa. Portate la minestra alla bambina, Maria. Ma io non sono affatto andata in giro sola per la città, dissi io. Mi ha accompagnata a casa il segretario di Albit. Maria posò davanti a me la minestra, ma io non avevo ancora portato il cucchiaio alla bocca che Susanna saltò su eccitata. Il segretario di Albit? Quel tipaccio che stava di guardia davanti alla porta e che chiamava i nomi? No, quello non era che un inserviente. Il vero segretario di Albit, un giovane tanto simpatico che conosce personalmente Robespierre. Così almeno dice lui. Del resto io non mi lasciarono finire di scusarmi. Stefano, che in carcere non si è potuto radere, ma che, a parte la barbaccia lunga, non ne ha affatto cambiato, mi interruppe. Come si chiama costui? Oh, ha un nome complicato, non è facile da tenere a mente. Bonaparte o qualcosa di simile, un corso. Del resto io neppure stavolta mi lasciarono terminare. E con questo giacobino selvaggio tu te ne vai in giro sola per la città? Tuonò Stefano e si immaginò di fare con me la parte di mio padre. In molte famiglie non si riesce mai a ragionare con un po' di logica. Prima si lagnavano tutti perché credevano che me ne fossi andata sola e al buio per la città, e adesso si agitavano perché non ero stata affatto sola e avevo trovato un uomo che mi aveva ottimamente protetta. Non è affatto un selvaggio. Si è presentato. Del resto la sua famiglia abita qui in città, sono dei profughi corsi. Del resto io... Ah, prima mangia la minestra che si raffredda, disse mamma. Profughi della Corsica, disse Stefano sprezzante. Probabilmente avventurieri che al loro paese sono stati coinvolti in intrighi politici e che adesso tentano la fortuna sotto la protezione dei giacobini. Avventurieri, dico, avventurieri. Posai il cucchiaio per difendere il mio nuovo amico. Credo che abbia una famiglia a modo e suo fratello è niente meno che generale. Del resto io... E come si chiama questo fratello? Interruppe. Non lo so. Probabilmente si chiama anche lui Bonaparte. Del resto io... Non ho mai sentito questo nome, brontolò Stefano. Ma siccome sono stati congedati quasi tutti gli ufficiali del vecchio regime, naturalmente mancano i nuovi. E allora si fanno promozioni a tutto spiano. I nuovi generali non hanno contegno, non hanno cognizioni, non hanno esperienza. Dell'esperienza ne potranno mettere insieme abbastanza. Siamo in guerra, interruppi. Del resto, io. Mangia la tua minestra, bambina, ammonì mia madre, interrompendomi per l'ennesima volta. Ma questa volta non mi feci più zittire. Del resto, io volevo dire che li ho invitati tutti e due da noi per domani. Dopo di ciò, cominciai a trangugiare in gran fretta la mia minestra perché sentivo che intorno tutti mi guardavano scandalizzati. Chi ha invitato, bambina mia? Domandò la mamma. Due giovanotti, il cittadino Giuseppe Bonaparte, o come altrimenti si chiama, e suo fratello minore, il generale, risposi arditamente. Oh, bisogna disdire l'invito, esclamò Stefano battendo il pugno sul tavolo. In questi tempi agitati non si fa venire in casa propria due avventurieri corsi fuggiaschi, dei quali nessuno ha mai sentito parlare. E non è affatto conveniente che tu inviti subito a casa tua un signore che tu hai conosciuto per puro caso in un ufficio pubblico. Non ci si comporta a questo modo. Tu non sei più una bambina, Eugenia, disse mamma. Oh, è la prima volta che in questa casa sento dire che non sono più una bambina, osservai. Eugenia, io mi vergogno per te, disse Giulia. La sua voce aveva un tono di profondo dolore. Ma questi profughi corsi hanno così pochi amici qui in città? Interruppi io. Pensavo di far appello al cuore tenero di mamma. Gente sulla cui origine né mamma né io non sappiamo nulla? Assolutamente no! Non pensi al buon nome tuo e di tua sorella? Così disse Stefano. Ma non sarà male per Giulia, mormorai io e gettai un'occhiata a mia sorella. Speravo che sarebbe venuta in mio aiuto, ma lei la taceva. Stefano, invece, per le apprensioni degli ultimi giorni, aveva completamente perduto la padronanza di se stesso. Tu sei la vergogna della famiglia, mi urlò. Stefano, lei è una bambina e non sa quel che si fa, disse mamma. Ma allora io perdetti completamente la pazienza, divenni di fuoco per la stizza. Sia detto una volta per sempre, e ricordatevelo, non sono né una bambina né la vergogna di nessuno, chiaro? Per un momento si fece silenzio. Va subito in camera tua, Eugenia, comandò mamma. Ma io ho ancora fame, ho appena incominciato a mangiare, protestai. La campanella d'argento di mamma suonò a distesa. Maria, vi prego, servite la cena alla signorina Eugenia in camera sua. E poi rivolta a me. Adesso va, bambina mia, riposa e medita su quello che hai fatto. Tu stai dando dei grossi dispiaceri a tua madre e al tuo buon fratello Stefano. Buonanotte. Maria mi portò la cena nella camera dove io dormo con Giulia e poi si sedette sul letto di Giulia. Che cosa è accaduto? Domandò subito. Quando non ci sono estranei, lei mi dà del tu. È venuta per me quando io avevo bisogno di una balia e credo che mi voglia bene come ne vuole al suo Pierre, il suo figlio illegittimo che abita in campagna, non so dove. Io alzai le spalle. È perché ho invitato due giovanotti per domani? Maria approvò. Pensierosa. Hai avuto una buona idea, Eugenia. Ormai è già tempo, credo, di darsi d'attorno per Mademoiselle Giulia. Maria mi capisce sempre. Vuoi che ti faccia una tazza di cioccolata? Sussurrò poi. Della nostra provvista segreta? Vuoi? Maria e io abbiamo una provvista segreta di ghiottonerie e mamma non ne sa niente. Maria ruba nella dispensa per noi. Dopo la cioccolata sono rimasta sola e ho incominciato a scrivere tutto. È già mezzanotte e Giulia sta ancora giù. È proprio una brutta cosa avermi mandata via così. Giulia è entrata proprio adesso e ha incominciato a svestirsi. Mamma ha deciso di ricevere domani quei due signori perché non si poteva disdire l'invito. Così mi ha annunciato Giulia con studiata indifferenza. Ma sarà anche la prima e l'ultima visita che quei due faranno in casa nostra. Questo è ciò che devo farti sapere. Adesso Giulia sta davanti allo specchio e si strofina la faccia con una crema che si chiama Rugiada di Giglio. Ha letto che la Du Barry adoperava Rugiada di Giglio anche quando era in carcere. Ma Giulia non ha la stoffa per diventare una Du Barry. Intanto vuol sapere se è bello, però. Io faccio la scema. Chi? Questo signore che ti ha accompagnata? Oh, molto bello al chiaro di luna, molto, molto bello al lume della lanterna e di giorno non l'ho ancora visto. Giulia non riesce a cavarmi di più.